Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Da bambina, tutte le domeniche, andavo a pranzo dai nonni di palazzo con i miei genitori. E quando la nonna calava la pasta, io attraversavo di corsa gli appartamenti reali per andare a chiamare il nonno. Io mi chiamo Liliana, ho 65 anni, sono una prof in pensione, mi piace molto leggere, mi piace scrivere storie e mi occupo di volontariato. Ci sono ogni tanto delle storie che arrivano a Voi Siete Qui che sembrano delle fiabe, sembrano delle piccole favole, e alcune probabilmente lo sono, alcune si capisce da come sono state scritte che hanno qualcosa di irreale, di fiction. La storia di Liliana invece no, ha il sapore di una storia vera, e proprio perché è vera in questo caso è ancora più interessante. Buongiorno a tutti, le 16:09 minuti in punto, Voi Siete Qui, Radio 24, io sono Matteo Caccia e oggi è il 26 di marzo, sta per finire anche il mese di marzo, noi continuiamo a raccontare storie. Ogni giorno raccontiamo storie diverse, se ascoltate questo programma lo sapete, non c'è un filo conduttore, l'unico filo conduttore è quello delle storie, dei racconti che ci arrivano a Voi Siete Qui, @radio24.it. E la storia di Liliana, appunto, vi dicevo, sembra una fiaba perché racconta di un luogo fiabesco, di un palazzo, lei lo chiama il palazzo, non vi direi ancora che tipo di palazzo è, ve lo lascio scoprire durante la storia. Però capita delle volte, di rado, magari delle volte non ce ne accorgiamo nemmeno, che siamo ospiti da qualcuno o che abitualmente è molto importante, insomma, non so quanti di voi conoscono i proprietari della villa di Downton Abbey, però capita magari di andare in un bed and breakfast o in un albergo, o sì, a casa di un amico o di un parente, magari qualche anno fa più che oggi, che è un monumento, che è un edificio storico, che è un'opera d'arte, e di passarci la notte in quella casa. 349-238-6666 oppure Voi Siete Qui Radio 24 è il nostro profilo Facebook, dove a brevissimo Margherita Ina posterà la foto del palazzo di cui stiamo parlando, di questo e dell'altro in cui ho avuto la fortuna di dormire io casualmente. Mi scrivono: mi è capitato di dormire nell'unité d'habitation di Le Corbusier a Marsiglia, lì però dentro al terzo piano, all'epoca c'era un albergo, quindi è più facile. Sì, ma vale tutto. 349-238-6666. Francesca, ho dormito alla Pedrera a Barcellona, gli ultimi due piani sono occupati da normali appartamenti e un'amica aveva subaffittato la mansarda, era una meraviglia. E poi ancora Emilio, ho dormito in un castello a Nocé in Francia, era la stanza di un vescovo. Roberta ha dormito all'ambasciata italiana in Nuova Zelanda, a Wellington. Stanza meravigliosa e bagno privato. Il messaggio più divertente che è arrivato però adesso è questo qua. Gilberto, ho dormito per terra in un villaggio paleolitico dentro un sito archeologico sull'isola di Panarea. Ha pubblicato anche la foto. Sono dei resti archeologici in riva al mare. 349-238-6666. Immaginatevi di essere un po' di anni fa e di andare a trovare i nonni che stanno in un palazzo reale. Per tutti sono semplicemente la reggia e il parco. Per me invece sono sempre stati il palazzo e il bosco. Mamma è nata al palazzo, come le altre sorelle, e tutte si sono sposate lì. L'ultima Maria Cristina nel vestibolo, perché negli anni 60 la Cappella Palatina era ancora in restauro. Il palazzo è sempre stato presente anche nel lessico familiare. Dei quattro nonni, due erano i nonni di palazzo. Così pure le due zie di nome Maria, anche loro erano le zie di palazzo. Mio nonno Enrico ci lavorava fin da giovanissimo e come molti impiegati aveva diritto all'alloggio. L'ultimo, quello che ricordo io, era grandissimo, con l'ingresso adiacente al teatro di corte, tra il primo e il secondo cortile a sinistra. La cucina era il posto più bello della casa. C'era un grande camino situato al centro e il vano finestra era talmente spazioso che nonna Francesca ci aveva sistemato un divanetto con due poltrone per leggere e lavorare a maglia. Mamma è nata a Palazzo Reale perché mio nonno era il conservatore della Reggia di Caserta e quindi aveva un alloggio. È rimasta ad abitare nel palazzo fino a 20 anni, e poi noi con tutta la famiglia, quando lei si è sposata, insomma, siamo tornati nel palazzo fino a quando il nonno non è andato in pensione, cioè fino a quando io avevo 17-18 18 anni. Da bambina, quasi tutte le domeniche andavo a pranzo dai nonni di palazzo con i miei genitori. Quando la nonna calava la pasta, io correvo a chiamare il nonno negli appartamenti reali, perché lui era sempre in servizio, anche di domenica. Per fare prima, non attraversavo i cortili, ma prendevo una scorciatoia che spuntava alle spalle della statua di Ercole Farnese, di fronte allo scalone, che io salivo di corsa. Nel periodo di Natale si andava sempre a visitare il presepe settecentesco. A Pasquetta era d'obbligo il picnic nel bosco. Le vacanze estive si trascorrevano nella pineta del Bosco Vecchio o alla Castelluccia. Nonostante il passare degli anni, c'è sempre stato un motivo per una passeggiata nel bosco. Con la bici fino al bagno di Venere, con gli amici venuti da fuori fin sopra al Torrione, con il fidanzatino al giardino inglese. I nonni di palazzo se ne sono andati alla fine degli anni 70, prima lui, poi lei, e le visite al Real Sito si sono molto diradate. Nel frattempo il palazzo è diventato la Reggia di Caserta e il bosco è diventato Parco Reale, così come si legge nelle guide turistiche e nei cartelli stradali. E quando è venuto Bill Clinton per un G8 negli anni 90, tutto il mondo lo ha potuto ammirare. Praticamente ci sono tutti gli alloggi di molti civili che lavorano nel palazzo a vario titolo, e poi ci sono gli alloggi di molti militari, perché ancora oggi una parte del palazzo è dell'aeronautica militare, c'è la scuola allievi sottufficiali, mi sembra. Un giorno, dopo aver visto un servizio in televisione, mi prende la nostalgia e decido di tornare nel palazzo dei miei nonni per rivedere gli appartamenti reali, il presepe, per fare una passeggiata nel bosco. È una bella giornata di primavera inoltrata e sotto le querce chissà quanti ciclamini ci saranno. Arrivo all'ingresso principale del palazzo, in piazza Carlo III. Entro, mi avvio istintivamente verso l'interno, ma un custode mi ferma. Devo fare il biglietto. Mi viene un grande magone, il cuore mi si riempie di tristezza. È come pagare il biglietto per entrare a casa dei nonni. Ma i sogni belli non si avverano mai. Era d'estate e tu eri con me. Era d'estate tanto tempo fa. E sul tuo viso lacrime chiare mi dicevano solo addio. A chi può capitare, magari nella stessa giornata, di fare la spesa dentro una bottega fatta costruire da Giulio Cesare? E poi di passare in macchina su un ponte medievale, andare in ufficio dentro un palazzo neoclassico e poi fare footing prima di cena in un parco rinascimentale. Ecco, non ne ho proprio le prove, ma sono quasi sicuro che solo chi vive in Italia può farlo. Siamo circondati dalla bellezza, dalle storie sedimentate, stratificate, filtrate da questa bellezza. E la cosa ancora più straordinaria è che sono alla portata di tutti. Ad esempio adesso, in questo momento, sono le 16:17, quasi 18. Provate, se siete in macchina, a darvi un'occhiatina in giro. I vostri occhi sbattono di sicuro contro un paesaggio decisamente al di sopra della media. Spero, insomma, per voi. Io so perfettamente quando ho avuto la prima volta questa sensazione. Era il 1999. Le prime avvisaglie le avevo avute a Palermo, a casa di Nicolas, un amico che studiava scenografia a Milano. I suoi genitori erano finiti a vivere in un palazzo che era stato scelto da Carlo V dopo che aveva giudicato il palazzo dei Normanni non adatto alla sua grandezza. Con noi a Palermo c'era anche Chicco, anche lui era abituato a quella bellezza. Suo nonno era stato il giardiniere addetto alla siepe a Villa San Martino, la villa di Berlusconi ad Arcole, e Chicco dentro quel parco praticamente c'era cresciuto. Proprio quell'anno un regista di Milano ci chiama tutti e tre per fare uno spettacolo. Nicolas fa le scene, io e Chicco recitiamo. Le prove le faremo nel Padovano, proprio a casa del regista. Quando partiamo non abbiamo nemmeno l'indirizzo, ci hanno detto di arrivare in paese e di chiedere di Villa dei Vescovi. Così quando arriviamo ci avviciniamo a un negozio, abbasso il finestrino e come da istruzioni chiedo. L'uomo che ho di fronte alza il braccio, indica dall'altra parte e dice «Eccola là». Ci voltiamo e davanti a noi c'è una collina coltivata a vigneti e sopra la collina, sproporzionato rispetto a tutto il resto, c'è un palazzo circondato da una loggia affrescata con decine di finestre di tutte le misure e rampe di scaloni sulla facciata. Non ho mai visto niente del genere. La villa è divisa in tre parti. La zona che era delle cucine, al di sotto dello scalone, è diventato l'appartamento di famiglia. Nel piano nobile, circondato dalla loggia affrescata, e nell'ultimo piano, il padrone di casa tiene la sua collezione d'arte privata in decine di stanze, tutte arredate secondo gli usi di tutto il mondo. Nicholas si sceglie la stanza afghana, con un quadro di Francis Bacon alla parete. Chicco la stanza nepalese, con gli espressionisti tedeschi. E io quella marocchina, con le nature morte di Morandi. I bagni, però, sono la sorpresa più grande. Sono così grandi, sono così raffinati, che praticamente facciamo sempre serata in bagno. E a turno c'è chi sta a mollo dentro a vasche di marmo romane, chi sta sdraiato su chaiselong in stile Liberty, chi sta seduto semplicemente su gabinetti che sono poltrone in legni antichi e paglia di Vienna. Ricordo che in quella casa c'era Angela, una ragazza di Rio de Janeiro che faceva la cuoca per i padroni di casa. Aveva qualche anno più di me e una figlia di 6 anni. La bimba era praticamente sempre vissuta là dentro. Sapeva tutto di quella casa. Sapeva le persone che ci abitavano e quelle che ci lavoravano, i passaggi segreti, in quali mostre erano stati spediti i quadri e i volumi delle librerie. Lei era quella che più di tutti si sentiva a casa là dentro. Io sono stato in quel posto per circa un mese, poi sono tornato a Milano per il debutto e di Angela e di sua figlia non ho più saputo niente. Oggi Villa dei Vescovi è diventata la sede del FAI. Quando l'ho scoperto mi è subito venuto in mente quella bambina mulatta con l'accento veneto. Ho pensato a quanto quel posto le sia appiccicato addosso, come una seconda pelle. Ovunque sia ora, che sia ancora là o sia in una casa di quelle come le nostre, con i soffitti bassi che abbelliamo con gli adesivi sul frigorifero, le storie della Villa dei Vescovi resteranno sue per sempre. Non è nella reggia di Caserta, Liliana, nella foto che ci ha mandato e che trovate sul nostro sito, radio24.it, la pagina di Voi Siete Qui. È però con suo marito, immagino, perché la tiene abbracciata, ha su degli occhiali da sole, nonostante sia, sembra, al coperto o al chiuso, perché alle sue spalle delle modernissime scale mobili. Pronto, Liliana? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Benissimo. Che scale mobili sono quelle in cui ti trovi con tuo marito? Quelle sono le scale mobili della metropolitana di Via Toledo. Ah, ok, quindi siamo in centro a Napoli praticamente. Siamo in centro a Napoli, sì. Perché... una delle stazioni dell'arte della nuova metropolitana. Ma scusami, la metropolitana di Via Toledo è la... la stazione di Via Toledo. Sì, è dove parte la metropolitana, ma mi confondo. No, la metropolitana parte dalla stazione. Okay. Questa è la nuova linea, la seconda linea nuova. Ok, ok. Ma dove parte la funicolare è un'altra cosa? No, la funicolare è un'altra cosa. Ok, è un'altra cosa, perfetto. Insomma, è la grande modernità di Napoli che non conosciamo, sì. Perché... No, infatti, perciò ce l'ho messa, così la vieni a vedere e fai un live, organizzi un live a Napoli, così posso Va bene. Anch'io. Dalla metropolitana oppure... Però, visto No, dove vuoi a Napoli. Visto che hai qualche gancio, anche alla reggia non mi farebbe proprio schifo, devo dirti, Liliana. Ma non ce li hai più gli agganci. Infatti questa immagine finale in cui tu stai entrando... e il signore ti dice scusi, deve pagare il biglietto, ci stringe il cuore. Arriva un messaggio da Piero che dice: conosco bene quegli appartamenti, andavo alle scuole medie lì alla Reggia e spesso restavo a studiare nell'appartamento di una compagna di classe che viveva lì. Aprire le enormi finestre della sua stanza per far passare la luce era un'impresa superiore alle nostre forze. Piero da Caserta. Senti, sembra davvero una fiaba la tua, che vai a trovare i nonni alla Reggia di Caserta. Ma per me è un fatto normale, per me era il palazzo dei nonni. era casa dei nonni, il palazzo. Per te erano i proprietari quasi. Sì, quasi, quando ero piccola sì, insomma, comunque era la casa dei nonni. Quindi ci facevi dei giochi ovviamente in quei corridoi, in quelle stanze. Sì, nei corridoi, nelle stanze, giù nei cortili quando ero piccola. Poi sono cresciuta e quindi... Oggi c'è un guardiano, c'è qualcuno che ci vive ancora dentro che tu sappia? Sì. Vabbè, a parte i guardiani c'è proprio un servizio di vigilanza, okay. Ma ci sono sia civili che militari, perché come dicevo nell'intervista, metà del palazzo è dell'aeronautica, quindi ci sono gli alloggi degli allievi, okay, gli alloggi dei militari, e poi l'altra parte credo ci siano gli impiegati, come era mio nonno in effetti. Tu non, da bambina non avevi paura di spazi così grandi, stanzoni così? No. E ad esempio, hai la sensazione che essere cresciuta in mezzo a tutta quella bellezza in qualche modo ti sia servito? Certo, perché a me piace molto l'arte, mi piace molto girare, andare alle mostre, mi piace. E quindi hai la sensazione che arrivi da là, insomma, qualcosa? Sì, dal fatto che sia di essere... stato uno degli elementi che ha contribuito a darmi questa sensibilità, credo almeno. Tra l'altro Marco da Tortona mi scrive in questo momento al 349-238-6666: la fermata metro Toledo di Napoli è stata scelta come la più bella in Europa da un organismo internazionale. Sì, è vero. E poi ce n'è un altro invece da qualcuno di Caserta che dice: anche mio padre lavorava lì, il primo bacio lo diedi lì, lei si chiamava Giovanna. Niente, la regia di Caserta si scopre che è stata un po' il luogo che ha allevato metà dei giovani della zona. Liliana... Ma anche d'Italia, perché poi è meta di moltissime gite scolastiche, quindi... Vabbè, certo, adesso lo immagino, però non c'è paragone tra andare in gita, andare il giorno di Natale a casa dei nonni alla regia di Caserta. Beh, certo, sì. Liliana, cosa hai fatto poi nella tua vita? Vabbè, poi nella mia vita ho studiato, ho lavorato, ho fatto l'insegnante, mi sono sposata. Cosa hai insegnato? Lettere? Ho insegnato italiano e storia in un istituto tecnico commerciale, che prima di me aveva la sede proprio a Palazzo Reale. E invece, Liliana, dimmi qual è il posto più bello di Napoli, uno dei posti più belli, magari anche un po' nascosti di Napoli, quelli che non si va a vedere quando si va di solito a Napoli. E vabbè, devi andare su Aposillipo per vedere tutto il panorama. Ok. Ok, il panorama, però che so io, le piazze, una cosa piccola. Guarda, io mi ricordo sempre devi di un po'... Devi andare nei Decumani, allora. Nei Decumani? Decumani, sì. Che sono? Perdonami l'ignoranza. Napoli è una città greco-romana. Sì. I Decumani erano le strade che i romani tracciavano quando fondavano una città. C'erano i Decumani e i Cardini. E dove si trovano a Napoli? I nuovi Decumani. Ah, okay. Hai capito? Ok. Dopo facevano una pianta e i Decumani andavano, mi pare, da est a ovest e i Cardi da nord a sud. Ok, io non so perché, ma tutte le volte che penso a Napoli penso a questo ristorantino che sta dentro Castel dell'Ovo, che credo fosse una tabaccheria prima. No, che... va bene, Castel dell'Ovo sì, però insomma c'è anche... A Castel dell'Ovo non c'è niente di effetto, però dentro... No, c'era questo ristorante che mi ricordavo bene. Liliana, grazie ancora per la storia e la chiacchierata che devo chiudere. Senti, se non facciamo live a Napoli... Vengo. Brava, vieni a Milano. Ok. Ciao, grazie. Ciao. Ho dormito nel fienile della tenuta Antinori a Bolgheri, ho dormito a Villa San Carlo a Costa Bissarra, Vicenza, ho dormito nella casa di Vassili, boh, che non so chi sia, però... Ah, di Vassilissa, era lo stesso messaggio, nella casa di Vassilissa di Mediterraneo, ho dormito all'interno ma all'aperto di un forte austriaco abbandonato raggiunto arrancando con il mio PX, sacco a pelo e scatolette. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata un po' favolistica di oggi, che sono Tiziano Bonini, come sempre, Paolino Corleoni e Margherita Ina, come sempre. Grazie soprattutto a Mauro Pescio che mi aiuta a scrivere questo programma, io ringrazio soprattutto Liliana perché la storia di oggi era la sua. E anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, mi chiamo Patrizia. Vivo in Brianza, la storia di domani è la mia. E parla di un piatto che per me è stato molto importante e per l'esattezza è una fondue bourguignon mangiata qualche anno fa a Parigi, a Le Halles. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui.